Noi dobbiamo, Parenzo, qui ci deve aiutare Salvini, perché deve intercedere per noi, deve fare una super, Ah, una super mediazione, sì, deve ho già fare capito cosa vuole fare, una... Hai capito? direttorissimo, sì. Magari Salvini già lo sa, eh? No, non lo so. No, Sì. il punto è E c'è stato un sì. incidente, Un qui pro raccontiamoglielo. quo. Un qui pro quo, cioè un incidente, qui pro quo non troppo, insomma. Un piccolo incidente Molto radiofonico. sgradevole, molto Molto sgradevole. sgradevole, sì, molto sgradevole. Cioè, qualche giorno fa, Alessandro Cecchi Paone, così per caso, come stasera a un certo punto Terese se ne è uscito dicendo che la Marcegaglia, beh, insomma, non lo ripeto, cosa assurda, non è che uno può dire la Marcegaglia, è quello che ha detto. A un certo punto se ne è uscito Cecchi Paone dicendo Borghezio puzza. Facciamo sentire Cecchi Paone, eh? Io ho avuto a che fare un paio di volte con lui accanto a me in alcuni programmi e devo dire che tra l'altro c'è il problema che puzza. Eh sì, assolutamente, come una capra, direbbe Sgarbi. Ora, io davanti a una cosa del No, no, genere sono rimasto lo basito ripeto e ancora. non voglio tornare su questa vicenda, cioè intavolare Volgare, una è come dire discussione. Parenzo alla Litosi, è Dunque, no, brutto. dunque non chiederò a Salvini se questa cosa è vera o no, perché non voglio intavolare una discussione. Detto questo, Salvini, abbiamo chiamato poi il giorno dopo, 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, non mi ricordo, credo la settimana successiva, questo è successo venerdì, l'abbiamo chiamato lunedì, credo, Borghezio per un intervento qui alla Zanzara. E Borghezio, non parlo più, lei Cruciani, mi avete, lei non ha detto niente davanti alla parola di Cecchi Paone, eccetera, eccetera. Dobbiamo salvare la situazione. Salvini, come facciamo qui? Lei è parlamentare europeo insieme a Borghezio, non penso che sia, come dire, sia rimasto colpito dalla presenza di Borghezio, non credo che, insomma, che abbia qualcosa da dire sulla... No, posso parlarci, capisco l'incazzatura perché per carità come Lega abbiamo tanti pregi e difetti, però se la critica politica deve essere che uno puzza, se veniste adesso dopo una giornata di lavoro che è cominciata stamattina alle 7 nei miei dintorni, probabilmente non c'è odor di ciclamino, però mi sembra che il signor Cecchi Paone abbia dimostrato tutta la sua pochezza con quella uscita poco felice, però proverò a recuperare il prode Porti le Borghezio. scuse della Zanzara, dica che non è stata colpa Va bene, va bene. torneremo in Torissimo, che è vero. accoppiata.